Perché la Chiesa dedica così tanto spazio e tante preghiere ai santi? Non certo per cadere nell'errore che rimproverano i protestanti a tanti cattolici di mettere i santi prima di Dio, anche se qualche persona male illuminata nella fede cristiana lo fa. Non è raro vedere persone che saltano la messa che in compenso vanno nei vari santuari, no? No, non è così. I santi invece sono i più fedeli imitatori di Gesù e la loro grandezza è tanto più vera quanto più sono simili a Gesù. Posso paragonarli, il paragone non è mio, posso paragonarli alla luna che risplende non di luce propria ma di luce riflessa dal sole, e tuttavia la luna in tante belle serate svolge una luce molto gradevole, molto efficace. I santi, quanto più sono imitatori di Gesù, tanto più illuminano la nostra strada di imitatori di Cristo. Sono questi. Oggi la Chiesa ci propone un grande imitatore di Gesù, ci propone San Francesco di Sales. È un santo famoso e grande, ma non sufficientemente conosciuto. Eppure a lui si è ispirato San Giovanni Bosco per dare il nome alla sua famiglia religiosa, i Salesiani. Ha preso ispirazione da lui. Potremmo dire, io ho letto un po' la sua vita, mi sono innamorato, ma non posso farvi un corso adesso. Il santo della dolcezza. E in effetti, a ben guardare, i sacerdoti salesiani, soprattutto i maschi salesiani, sono molto dolci nella educazione della gioventù. Io che sono cresciuto nell'ambito della gioventù come prete diocesano, devo ammettere che pochi sacerdoti trattano la gioventù come li trattano i salesiani, oltre che con competenza, anche con grande dolcezza. In effetti, San Francesco di Sales era un santo di una grande dolcezza. Lui, anche se è vissuto in una zona dura, nella Svizzera, fu vescovo di Ginevra, mi pare, durante il protestantesimo. Lui cercò di convincere i protestanti con le sue parole, con la sua dolcezza. Lui è stato fatto patrono dei giornalisti perché scrisse molto per cercare, argomentando bene, per cercare di convincere i protestanti. Addirittura si mise a far stampare dei fogli da distribuire a mano, da appendere ai muri, da appendere proprio come un antesignano della stampa che finisse in mano alla gente per portare le idee giuste. E sarebbe interessante, vi auguro, di andare a cercarvi, se qualcuno di voi la vuole, mi mandi una mail, io gli mando un bel fascicoletto di una decina di pagine che ho raccolto per poter conoscere la sua vita. Qui vi cito solamente alcune frasi. La cordialità è l'essenza della vera amicizia. La cordialità è l'amore che dà il prezzo alle nostre azioni. Ancora, si ha un bel dire, ma la lingua parla solo alle orecchie, ma è il cuore che parla al cuore. Andrebbero prese ciascuna meditata, mangiata, sgranocchiata. È sufficiente amare bene per dire bene degli altri. Capite che se facciamo il contrario vuol dire che uno che dice male degli altri è uno che ama male, e noi ci difendiamo dicendo: ma ho detto la verità, peccato che non l'hai detta con amore. E ancora, i grandi progetti si realizzano a forza di pazienza e di perseveranza. E ancora, bisogna fare tutto per amore, nulla per forza. Ma non era una persona ottusa, eh? Sapeva bene, e dice: ogni vocazione ha le sue noie, le sue amarezze, i suoi disgusti. Che qualcuno potrebbe accusare di un bonaccione, è un patatone. Sapeva bene che tutte le vocazioni hanno le loro amarezze, le loro noie e i loro disgusti. Bisogna aver pazienza con tutti, soprattutto con se stessi. Bella, bella. Quante volte noi non siamo in pace con noi stessi. Bisogna sopportare gli altri, ma soprattutto sopportare se stessi. È veramente il santo della dolcezza. E allora lo invochiamo, o San Francesco di Sales, benedici i salesiani e anche le salesiane, e benedici tutti noi che guardiamo a te come a luna che, illuminata dal sole, illumina il nostro cammino, e così sia.